La nevrosi è un termine generico attribuito ad un gruppo di malattie i cui sintomi indicano un'alterazione funzionale del sistema nervoso senza alterazioni della personalità. I principali stati nevrotici sono l'angoscia, l'astenia, le ossessioni, le fobie e l'isterismo. Questa malattia psichica nasce da un conflitto tra la coscienza e le tendenze istintive dell'uomo, procurando una disarmonia che si manifesta in vari modi. Vi è la nevrosi cardiaca, cioè un elitismo cardiaco detto anche tachicardia, prodotta da sforzi o emozioni. Questo tipo di nevrosi è accompagnata da palpitazioni, angosce e turbe vasomotorie. Vi è la nevrosi anagapica, caratterizzata da uno stato depressivo, angoscioso. Essa proviene in seguito a traumi psichici dell'infanzia per mancanza di affetto. Vi è la nevrosi di abbandono, che avviene in seguito all'assenza o alla scomparsa di un legame affettivo e può manifestarsi in diversi modi, con uno stato depressivo, angoscia e talvolta con il suicidio o il suo contrario, cioè l'esaltazione e l'aggressività. Vi è la nevrosi traumatica, prodotta in seguito a violenti traumi del sistema nervoso. Si manifesta con fenomeni di depressione e può sfociare in una vera paralisi organica, fisica e corporea. Vi è la nevrosi vasocostrittiva, che è una angioneurosi dolorosa del seno, delle ghiandole mammarie della donna con spasmo doloroso dei muscoli lisci e striati. Al momento della crisi nervosa, l'aureola e il capezzolo della mammella diventano pallidi. Vi è la nevrosi da indennizzo, che è la sindrome psichica osservata in alcuni assicurati sociali, che cercano, esagerando i disturbi reali, per ottenere la pensione che li libererebbe da ogni preoccupazione. Questi tipi di nevrosi mettono in evidenza prima di tutto quanto sia fragile l'umanità nei confronti degli eventi della vita e come ogni essere umano, per vivere sano, fisicamente e psicologicamente, abbia bisogno che tutti gli aspetti del suo essere, il corpo, l'anima e lo spirito, debbano essere in un'armonia perfetta. Dato che tutti noi siamo inclinati, attratti soprattutto da ciò che è materiale, come il benessere, la salute, il sesso, o al massimo ciò che procura soddisfazione alla nostra personalità, come il successo, l'onore, occorre prendere in esame l'aspetto spirituale della nostra persona. Dal momento che l'anima, il corpo e lo spirito sono intercomunicanti, senza l'armonia di un solo degli elementi non vi è nessun tipo di salute. Ne consegue quindi che non è possibile mettere da parte la parte spirituale. Non serve a nulla parlare di nevrosi se non ci si cala nella pratica. Una volta individuata la causa o diagnosticata la malattia, si è solo all'inizio del cammino verso la guarigione. Perciò occorre una buona cura. Di cure attualmente ce ne sono: pillole e farmaci, ma ci è chiusa anche sigarette, l'alcol o il caffè per trovare un poco di rilassamento, ma da quanto si vede sono palliativi inefficaci. Perciò ancora una volta l'aspetto spirituale è l'aiuto per risolvere il problema alla radice. Una delle promesse in merito, care al mio cuore, si trova nel libro dei Proverbi. Figlio mio, queste cose, cioè la sapienza e la riflessione, non si allontanino mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via, e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai, e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso, né la rovina degli empi, quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Proverbi 3.2.1.26. Molti dimenticano che l'organo più importante del nostro essere è il cervello, e che da esso procedono non solo le cause giuste, come la pace e la gioia, ma anche le cause sbagliate, come la nevrosi. La pace e la nevrosi sono reazioni nei confronti della vita, e non azioni. Per svolgere un lavoro occorrono intelligenza e riflessione, e queste sono azioni del cervello. Ma la paura, la pace, la nevrosi sono il prodotto di una reazione ad uno stimolo esterno, e spesso sono incontrollabili. Quindi, Tutto è questione di come percepisce il cervello le situazioni esterne. Un uomo abituato a lavorare a decine di metri da terra non percepisce nessun pericolo e svolge il suo lavoro sereno, ma molti tremano davanti solo ad un'altezza di pochi metri. Non è tanto l'altezza a spaventare le persone, ma l'opinione che abbiamo di essa. Quindi, la sapienza e la riflessione possono aiutarci a non temere l'altezza, anche se emotivamente saremmo disposti ad avere paura. La riflessione, la giusta sapienza di Dio, sono anche in grado di farci riposare tranquilli anche quando il pericolo è imminente. Nel libro degli Atti leggiamo che l'apostolo Pietro dormiva tranquillo il giorno prima della sua esecuzione di morte, perché sapeva meno, e questa è la sapienza e la riflessione meno, che la sua vita era nelle mani di Dio comunque andassero le cose. Per molti la morte è ragione di ansietà, di paura e di terrore, e solo una giusta fede in Cristo è possibile cacciare la paura. La nevrosi non è solo una disarmonia con la vita, ma essa procura varie malattie delle quali la società è piena. Innanzitutto la nevrosi procura la pressione alta e non occorre essere degli specialisti per comprendere questo. Ero andato a trovare una mia parente e nella conversazione mi disse di essere andata dal dottore poiché si domandava la ragione di un improvviso rialzo elevato della pressione. Gli chiesi se aveva un problema in famiglia e mi confidò che sua figlia stava avendo una storia sentimentale con un uomo sposato. Non è detto che la pressione alta sia sempre il sintomo di una nevrosi, perché esistono anche le malattie, ma verifico anche in mia madre come ogni emozione spiacevole gli procuri un'alterazione della pressione. Una volta dovette essere ricoverata, perché la pressione alta aveva agito sulla mente al punto da non essere più presente. Quanta gente si trova in queste condizioni? I dottori fanno bene a curare i malati, ma dovrebbero mettere anche tutto il loro impegno a verificare e scoprire le ragioni di certe alterazioni fisiologiche. La nevrosi procura anche l'ulcera, malattia questa molto comune. Quando qualcuno mi confida che ha male lo stomaco, 9 volte su 10 scopriamo assieme che ha problemi con gli altri o con il lavoro. Occorre essere onesti e ammettere che quando siamo in conflitto con gli altri, siamo sempre in conflitto con noi stessi. Il vero conflitto in verità consiste solo nella nostra mancanza di capacità di relazionarci con la vita nel modo giusto. Una buona cura per non essere vittima della nevrosi è la riconoscenza, l'avere nel cuore una gratitudine verso tutti e, prima di ogni cosa, verso Cristo che ci ha creati. Quando la parola di Dio ci ordina di non rifiutare il bene a chi è dovuto quando è in nostro potere il farlo, quando ci ordina di non macchinare alcun male contro il prossimo, quando ordina di non intentare causa contro nessuno senza motivo se non ci ha fatto alcun male, quando ci ordina di non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie, non lo dice solo per una ragione morale, ma anche di benessere. Chi non ha capito questo non ha capito il cristianesimo, cioè la condotta indicata da Dio per la salute dell'uomo tutto intero, anima, corpo e spirito. Occorre ribadire che le leggi religiose e civili dettate da Dio sono per il bene della società e dell'individuo, e come prova di questo vediamo nella storia che le nazioni dove l'Evangelo è stato ricevuto sono progredite e le malattie diminuite. Uno dei sintomi di malessere più frequenti sono il mal di testa, alla nuca e al collo, eppure pochi si rendono conto che quasi la totalità delle volte sono di origine nervosa. Ho letto la testimonianza di un uomo che soffriva dei mal di testa al punto di sbattere il capo contro il muro, ma quando conobbe la bella notizia del Vangelo e lo ricevette fu guarito completamente da ogni cosa. Questo dimostra che vi sono delle conseguenze nevrotiche anche inconsce, che solo l'Evangelo può togliere. Perciò, predicare l'Evangelo non è solo giusto, ma spesso è la medicina conscia e inconscia per il nostro benessere fisico. La nevrosi può provocare anche una trombosi coronarica, malattia, anche questa preoccupante. Le emozioni come la paura, l'ansietà, le frustrazioni, i fallimenti, i sensi di colpa, il rifiuto, l'invidia, sono tutte nemiche della salute di un cuore bisognoso di serenità e di sicurezza. Dove trovare ciò che il nostro cuore brama e ha bisogno? Il re Davide ebbe una vita molto travagliata e piena di tensioni, ma come credente testimoniò: l'anima mia trova riposo in Dio solo. Da lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza, egli è il mio alto rifugio. Io non sarò mai smosso. Essere nevrotici significa sentirsi venire la terra meno sotto i piedi, significa non avere né riposo né rifugio né fiducia nel futuro, ma chi conosce Cristo ha l'uno e l'altro. Noi dobbiamo capire in modo giusto la vita, e capire significa rifiutare l'idea dei fatti così come li intendiamo per dare spazio ai fatti così come sono realmente. E questo solo una fede in Cristo lo può fare. Quando si parla di fede, occorre specificare che non si tratta di agire secondo i propri parametri e chiedere aiuto a Cristo quando ci si trova in difficoltà, ma Cristo diventa il sostituto della nostra esistenza. Finché Gesù Cristo non è l'essere da cui facciamo dipendere tutta la nostra condotta, finché non si accetta di non mettere in discussione la sua persona e non ci turba di vederlo schernito o canzonato, finché non si è disposti a non rinnegarlo, qualsiasi prezzo questo ci possa costare, Cristo è solo un inutile palliativo religioso inefficace per risolvere le nostre nevrosi. Se Cristo è la nostra pace, la nostra speranza e la nostra gioia, la nostra sapienza, non vi sono alterazioni funzionali nel nostro sistema nervoso, perché noi possiamo cambiare, noi siamo deboli, ma lui no. Tutti abbiamo difficoltà, dispiaceri, rimorsi, ingiustizie e conflitti, eppure non tutti sono nevrotici. Il segreto? Accettare se stessi con le proprie contraddizioni e conflitti, accettare la realtà della vita, accettare le diversità altrui che provocano insofferenza in noi, accettare di vivere con dei desideri insoddisfatti sia fisici che morali, avere pensieri positivi richiamati dalla volontà, ma soprattutto accettare il dono di essere stati creati e amati da Cristo Gesù. Aprile 2006. Ellero.